Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Paolo Nespoli, 59 anni, milanese, sposato, due figli, professione astronauta, la prima missione nel 2007, la seconda nel 2010 e adesso si sta preparando per la terza. Nel maggio 2017, compiuti 60 anni, volerà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, dove resterà 6 mesi. Il suo motto: sognate cose impossibili, poi svegliatevi e datevi da fare. È l'unico astronauta italiano con un record di 3 voli tra le stelle. Di sé ha detto: non sono un supereroe, sono un uomo normale, un italiano medio. Ecco Nespoli, quindi l'astronauta è un mestiere come un altro, possono fare tutti? Beh, assolutamente sì, non bisogna essere Superman e supereroi, bisogna essere decisi. Senta, però ho letto che per prepararvi alla prossima missione resterete 3 giorni nella foresta russa a meno 30 gradi, con poche provviste, un telo di paracadute per costruirsi un rifugio. Insomma, proprio un'esperienza da italiano medio, non lo so. Beh, è già fatto, l'abbiamo fatto perché i russi naturalmente aspettano l'inverno duro, adesso è già estate lì, e l'abbiamo fatto a febbraio, meno 25. Non è niente di tragico, niente se di uno tragico. Lo fa con attenzione e seguendo quello che dicono. È peggio l'isola dei famosi. Non lo so, devo ancora vedere. Lei ha detto che ha avuto più paura durante gli addestramenti che non una volta nello spazio. Ecco, perché? Ma gli istruttori cercano di ammazzarti e diventa un gioco e ogni tanto ti ammazzano. E di fatto quando si va nello spazio, di tutto quello che ti hanno fatto fare, si prova pochissimo. Sembra quasi noioso a un certo punto. Rispetto alle Senta, ma una volta lassù, quindi il peggio è passato, oppure comunque non c'è più niente da fare, ormai ci sei. Una volta lassù? Beh no, lassù si lavora. Lassù no, ho capito, ma dico rispetto alla paura. Ci sono sempre situazioni strane, ci sono momenti, possono esserci momenti difficili. In una delle missioni, nella prima missione, abbiamo avuto un momento da Houston we have a problem. Ah, quindi, sì, Houston sì. We have a problem, è capitato. Sì. Cioè, cos'era? C'era un pannello solare, mentre stavamo spiegando questo pannello solare, ha cominciato a strapparsi, che avrebbe potuto bloccare il corridoio di sgancio dello shuttle dalla stazione. Saremmo rimasti lì sopra, ma c'era ossigeno, ci sarebbe stato ossigeno per una decina di giorni e poi... Non è molto bello, devo dire. Mamma mia. Però abituarsi alla non gravità non deve essere facile, no? Lei ha detto che quando sei nello spazio devi imparare tutto da capo, cioè mi fa degli esempi. Ognuno è una cosa molto soggettiva. Io per esempio mi abituo facilmente, ma non è sempre così, perché alla fine la forza di gravità qui sulla Terra ce l'abbiamo dappertutto. Se prendiamo un aereo e andiamo a Sydney in Australia, dormiamo come dormiamo a Roma, e invece nello spazio no, perché galleggi, stai cadendo. Per esempio, se uno beve un bicchiere d'acqua, la cosa che ti viene da fare è di annegare sostanzialmente, quindi devi imparare a bere, a dormire, a muoverti, non si può più tutto. Camminare, andare in bagno, devi rimetterti in gioco completamente. Senta, ma essere avventurosi è il primo requisito per un astronauta, no? Ma direi che sì, bisognerebbe essere un pochettino aperti, un pochettino così, altrimenti non ti puoi grande confrontare curiosità, con queste insomma. Sì, e questa è mettersi in gioco sicuramente. Senta, oltre alla passione e alla preparazione, lei ha anche un'altra cosa, un'età, 60 anni. Nel suo caso l'età è un limite o un vantaggio oppure è irrilevante? Ma direi così su due piedi che è quasi irrilevante, perché una volta che uno passa le visite mediche, che sono uguali a qualsiasi sia l'età, una volta che uno è qualificato e le qualifiche sono uguali, per il resto avere più esperienza dà valore, quindi l'esperienza quindi è quasi meglio. È sì, sicuramente. Quindi l'età meglio. Può essere un vantaggio invece che uno svantaggio, a parità di condizioni, diciamo. Sì. Senta, sulla Terra invece vige una regola opposta, soprattutto qui da noi, quella della rottamazione. Avanti i giovani, addio i vecchi. Lei cosa ne pensa? Sì, è una situazione un pochettino strana che sto vivendo anch'io, perché quando io ero un astronauta giovane facevano fare tutto ai vecchi e noi dovevamo aspettare. Adesso che sono vecchio, tra virgolette, fanno fare tutti ai giovani e quindi è una situazione un po' strana per noi che siamo del boom delle cose. Ma direi che bisognerebbe trovare il modo di tenere in equilibrio dare le prospettive ai giovani e allo stesso tempo utilizzare quelle che sono le esperienze, le conoscenze. Senta, non le hanno mai detto se è troppo vecchio per questo? Sì. Sì, eh? Ha dato un cazzotto? No, li ho guardati un pochettino strani. Ma, se è troppo vecchio per questo, ma, vediamo, direi di no. Vediamo. Senta Nespoli, lei ha raccontato che quando è tornato dall'ultima missione è stato male, aveva male ai muscoli, non riusciva quasi a muovere il braccio per guardare l'ora. Era l'età oppure il riabituarsi alla gravità? No, è una cosa normale, il riabituarsi a questa forza di gravità, che a me è sembrato nella navicella di rientro che qualcuno venisse nella navicella e mi buttasse addosso una coperta di 300 kg, tanto è forte la forza di gravità. E quindi pesava tutto in un modo, e sì, poi non si è più abituato, il sistema vestibolare, l'equilibrio, ci sono questi scompensi, ognuno la vive diversamente e io... Quanto ci vuole per rimettersi in sesto, diciamo così? Ma la NASA ti tiene per 3 settimane, ti tiene sotto osservazione completa, ti fanno fare 4 ore di riabilitazione, 4 ore di esperimenti, eccetera, eccetera, per 3 settimane. Dopodiché ti dicono che adesso tiene la patente, occhio a fare queste cose, però ci vogliono 6 mesi, almeno 6 mesi, per ritornare veramente terrestre. Senta, ho letto che se la chiamano astrononno si arrabbia molto, è vero? Non mi arrabbio, mi viene da ridere a dire la verità, ma insomma... Non sono nonno, tra l'altro. Quindi. Vabbè, senta, ma crede che sia un problema? Un po' l'ha detto questo dell'età. Lo sente anche in America dove vive? Cioè, lì, insomma, è forte? Direi che l'età non è uno dei parametri principali. Vedo che negli Stati Uniti di solito si va a guardare le competenze e le capacità. Certo. Di solito questa è la cosa principale. Certo, l'età non aiuta, ma dipende, di nuovo. Dipende dai cosa casi, uno deve fare e cosa vuole fare. Senta, tra esattamente un anno, nel maggio del 2017, lei tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Qual è l'obiettivo di quella missione? Beh, è una missione della Stazione Spaziale Internazionale, che vuol dire un laboratorio che gira attorno alla Terra dove si fanno esperimenti. Quindi faremo tantissimi esperimenti nel campo della scienza della vita, della metallurgia, insomma tutte le cose che ci permettono. E lei ne ha uno specifico che seguirà? No, perché io sono uno della forza lavoro che viene inviata sulla Stazione Spaziale Internazionale, ed è il centro di Houston, sulla base delle richieste delle varie agenzie. L'Agenzia Spaziale Italiana, per esempio, va a fare l'operaio là sopra. Esatto, però il compito meccanico dell'Agenzia Spaziale Italiana in questo caso definire gli esperimenti di interesse italiano e fare in modo che siano là sopra, e ci stanno lavorando. Senta, lei, quanti siete lì? 6. Siete in 6, italiani, russi, americani? No, saranno 3 russi, 2 americani e 1 italiano. E che lingua vi parlate fra di voi? Si parla l'inglese normalmente, ma naturalmente c'è la parte russa, perché i russi pretendono bisogna imparare il russo, tra l'altro la navicella che ci porta su è russa, i computer sono in russo, le procedure sono in russo, il centro di controllo è russo, quindi lei comunque c'ha una moglie russa, dovrebbe essere più facile. In teoria sì, in pratica mia moglie si rifiuta di parlare con me perché dice che il mio russo fa schifo e io dico devo pilotare una navicella, non le cose normali. Devo dire ti amo. Cucinare un uovo, insomma. Senta, partire per una missione che in qualche modo ha già fatto, è meglio o peggio di partire la prima volta? Cioè, che sensazione le dà? Una cosa già fatta, dice vabbè, oppure aiuto di nuovo? No, devo dire che mi sto trovando, sono abbastanza rilassato, mi sento rilassato in addestramento, perché si fanno continuamente delle qualifiche, degli esami, e se una volta ero un attimino in fibrillazione per questi esami, adesso prendo i manuali, vedo questi diagrammi impossibili da capire, li ho già studiati, quindi sono un pochettino più tranquillo adesso, però sono eager, per dirlo all'inglese, aspetto questa opportunità, perché essere in orbita, liberarsi dalla forza di gravità, è l'unico modo di andare in orbita, è una cosa veramente fuori dal mondo. Cioè una droga proprio. Sentirsi libero, sentirsi Superman, sentirsi l'uomo nano, perché sulla Terra non possiamo fare questo esperimento e difatti, o non possiamo fare questa esperienza, non esperimento. Difatti vorrei che tutti la provassero questa cosa, perché io mi sono sentito bambino, mi sono sentito alla scoperta di un mondo nuovo, e all'inizio le cose non funzionano, non riesci a fare, perché ti forzi a fare le cose come le facevi poi sulla Terra. Quando si capisce che l'uomo può imparare a fare tante cose. Quando ti lasci andare è una cosa veramente bella. C'è un momento di rottura, insomma, in cui ti lasci andare. Normalmente sì, perché all'inizio ti scozzi con non riesco a fare la cosa, non riesco a fare questa cosa, perché poi, e capisci che la stai facendo da terrestre, invece devi diventare un extraterrestre. Certo, senta, gli esperimenti che voi fate lassù, che ricadute hanno sulla vita quotidiana? Mi fa un esempio, per esempio. Ma dice... ci sono tantissime cose. Ne faccia uno, due. Diciamo, mettiamo così, per esempio, per il fatto che siamo in assenza di gravità, il corpo capisce che non abbiamo più bisogno dello scheletro. Perché dice, lo scheletro ci serve sulla Terra a contrastare la gravità. Se è in orbita non ti serve lo scheletro. Il corpo comincia a smantellare lo scheletro. Difatti, quando ci fanno gli esami, vedono che noi buttiamo fuori con l'urina e spelliamo una quantità di calcio 10 volte superiore a una persona osteoporotica sulla Terra. E quindi diventiamo praticamente, sei sano e diventi, tra virgolette, osteoporotico. Mamma mia. E allora vanno a vedere quali sono questi meccanismi e cercano di bloccarli, perché nello spazio si possono isolare e si possono vedere... Insomma, inventare le cure, per inventare le cure. Per esempio, una cosa... Vabbè, per l'osteoporosi andiamo a volare fuori dal... O per esempio nel campo della metallurgia si possono prendere due metalli, farli fondere nello spazio e fanno delle leghe perfette, si portano giù questi campioni e poi si vede quali sono le caratteristiche di questi metalli. Senta, il budget dell'ESA, l'Agenzia Europea dello Spazio, è più o meno 5 miliardi di euro. Molti pensano che quei soldi si potrebbero usare anche meglio sulla Terra. Lei è d'accordo? Sì, in generale, ma direi che dovremmo stare attenti, perché 5 miliardi sono tanti, ma a dire la verità pochissimi se uno li paragona con le spese, che ne so, della sicurezza o queste altre spese. Quindi quello secondo me sì, perché è un'area molto importante, vanno usati con attenzione. Certo. Vabbè, dal lancio di Gagarin, il primo russo nello spazio, ad oggi gli esseri umani che sono stati lanciati sono... più di 500, gli italiani mi pare 7, sono tanti. Corretto. O pochi? 500 persone sono poche, e 7 italiani sono tanti nel confronto degli altri paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea o paesi mondiali, insomma. Certo. Non sono tantissimi, però noi abbiamo un buon record nel senso, un buon percentuale. Noi abbiamo, l'Agenzia Spaziale Italiana è stata molto attenta e negli anni 80-90 ha fatto un progetto diretto con gli Stati Uniti, per cui ora abbiamo, come Italia, siamo uno dei paesi privilegiati. Perché abbiamo un accordo diretto con la NASA che ci permette di far volare astronauti e poi anche un accordo con l'Agenzia Spaziale Europea. E siamo l'unico paese europeo che ha questa e noi siamo, dopo i sovietici e gli americani, abbiamo anche inviato satelliti in San Marco, no? Usando un team specifico, è così? Sì, siamo stati uno dei primi paesi che si è affacciata alla cosa dello spazio. Il problema italiano è che manchiamo di costanza, per cui abbiamo questi ogni tanto picchi, c'è l'exploit. Abbiamo questi picchi che nessuno pensa siano possibili e poi ci adagiamo un attimino, e quindi nella media siamo un pochettino sotto, questa è la mia cosa. Però in effetti abbiamo dei record invidiabili. Ma c'è la rivalità russa-americana nella conquista dello spazio, nel viaggio dello spazio? Lei che vede, anzi vive e convive anche. Beh, sicuramente per quanto è rimasta la corsa alla Luna, sicuramente c'è stata una rivalità forte. È rimasto qualcosa? Ancora oggi c'è un po' di rivalità, perché andare nello spazio vuol dire tecnologia. Certo. Chi riesce a fare queste cose dimostra che ha una tecnologia superiore. Non solo dimostra, ma ce l'ha. E quindi i russi, per esempio, tengono gelosamente i segreti. Certo. Senta, ma le motivazioni sono per andare nello spazio, sono più civili, di ricerca, oppure anche militari? Ma c'è una combinazione, direi, tra loro. È chiaro che strategicamente chi controlla lo spazio controlla le comunicazioni, controlla tutta l'osservazione, controlla l'intelligence. Però rimane sempre il fatto che noi come razza siamo destinati a non essere contenti finché non facciamo le cose che non si possono fare. Certo. E questo è quello quella che la parte ci invece ha portato, comune, diciamo, esatto, così. Esatto. Ecco, lei ha detto che quando ha visto la Soyuz, la navicella russa, le sembrava fosse stata assemblata in un garage, mentre lo shuttle era come quello americano, era come una Ferrari. Ma c'è un approccio molto diverso tra russi e americani anche da questo punto di vista? Beh sì, se uno vede il razzo con cui partiamo oggi russo e andiamo sulla Luna e capisce che il primo stadio è ancora quello che hanno usato per Yuri Gagarin, addirittura partiamo dalla stessa piattaforma di lancio. A me hanno detto, Nespoli deve essere orgoglioso, partirai dalla piattaforma di lancio di Yuri Gagarin. Io non so se vuoi piangere. Cioè, mi dice, no, però l'abbiamo verniciata, di la verità. Allora, la filosofia è diversa. I russi fanno le cose, tra l'altro hanno fatto un lavoro negli anni 50 veramente straordinario, e poi l'hanno tenuto così com'era, perché andava bene, l'hanno modificato piano piano. Se non hanno avuto bisogno di aggiornarlo con la moda. No, ci sono delle filosofie diverse, e qui bisogna stare un attimino attenti, bisognerebbe parlare per tanto tempo, però in teoria noi cerchiamo la tecnologia a tutti i costi, cerchiamo il telefonino, l'ultimo modello che ha 2000G, e poi si spaccano perché ci sono 300.000 sensori che non utilizziamo, e i russi non ce li mettono e risolvono il problema. E quindi non si spaccano i computer, non ci sono. E sono due filosofie diverse. Senta, ma atterrare con la Soyuz e con lo shuttle è diverso proprio per questa ragione. Mi è piaciuto Scott Kelly, l'astronauta americano che ha fatto un anno in orbita appena tornato, ha definito l'atterraggio con la Soyuz un atterraggio medioevale. Cioè? E difatti è vero, perché è medioevale, cioè è come se per andare dall'altra parte di Roma ti catapultassero con la catapulta di quella di una volta. Sperando di centrare. Esatto, è più o meno così. Di fatto è funzionale, costa poco, funzionale, è sicuro, però è un po' medievale, piuttosto brutale. Certo, lo shuttle invece? Lo shuttle era una signora macchina, perfetta. Perché non la si usa più allora? Perché il discorso che facevo perché c'è il modello shuttle, 6G, lo 4K, shuttle particolare. Il problema dello shuttle era che è una macchina troppo avanzata. Ancora oggi è una macchina davanti a noi. E il problema è che è andata in pensione non tanto perché è vecchia, ma perché è troppo nuova, diventava complessa da gestire, costosa, e quindi siamo tornati a utilizzare le navicelle di una volta, nell'attesa che capiamo come fare questa cosa in modo più efficiente. È molto interessante questo discorso. Senta, il giorno in cui Armstrong è sbarcato sulla Luna, lei, come altri milioni di uomini sulla Terra, era davanti alla televisione, lì ha deciso di fare l'astronauta. Diciamo che avevo questa idea così di questo, e sì, forse quello è stato il momento che ha focalizzato un attimino. Ma perché sulla Luna non si è più andati, la corsa alla Luna, arrivati. La mia risposta a questa è relativamente semplice: era un modo per far vedere chi fosse tecnologicamente più avanzato. Quindi la Luna non è interessante in sé. Hanno trovato che la Luna probabilmente è un pezzo di terra, quindi se avessero trovato, che ne so, un metallo nuovo, altro pezzo di terra, quindi c'è chi dice che invece economicamente l'hanno trovato. Non c'è ragione di andare oggi sulla Luna. Economicamente c'è ragione se uno vuole continuare con l'esploratore, con l'esplorazione politica, e quindi non c'è, hanno vinto la corsa. Poi lei comunque si è arruolato nell'esercito, perché? A dire la verità, l'esercito mi ha chiamato come militare di leva. Io sono andato in esercito come militare di leva, e poi alla fine ho deciso di rimanere perché in effetti mi ha tolto dal mio paesino e mi ha aperto tutta una serie di cose, mi ha spinto. Il paesino qual era? Io sono nato a Milano ma originario della Brianza. Cioè Verano, Brianzolo, cosa vuol dire Brianzolo? Cosa vuol dire essere Brianzolo? È una domanda molto interessante. Diciamo che Brianzolo è essenziale, il lavoro è sostanzialmente quello che si fa, è lavorare. È assolutamente tutto. È tutto. Senta, è vero che dopo è stata Oriana Fallaci che l'ha rimessa sulla Via delle Stelle? Ho avuto l'occasione, dopo 7 anni nell'esercito, un momento importante della mia vita, ho conosciuto per lavoro Oriana Fallaci, che mi ha chiesto a un certo punto: senti, ma cosa vuoi fare da grande? E lì è saltato fuori questa cosa dell'astronauta. Perché lei era stata a Houston. Tra l'altro io avevo letto, quando ero ragazzino, ho letto il suo libro Se il sole muore, quindi era un attimino anche un po' colpa sua, tra virgolette. Ed è rimasto amico della Fallaci dopo. Ero rimasto amico, siamo rimasti amici per un po', poi Oriana Fallaci era una tipa un pochettino strana, o comunque è fatta a modo suo, quindi poi siamo andati su strade diverse, ma sì, c'è stato questo. Nel suo libro, Dall'alto i problemi, lei scrive: dall'alto i problemi sembrano più piccoli. Ecco, lei ha scritto che scegliere i sogni da perseguire è forse la cosa più difficile. E certo, perché come si fa a capire un ragazzino, come fa a capire che cosa vuole fare da grande? Quali sono le sue capacità? Quali sono le sue possibilità? Certo, uno vuole fare il ballerino, ma ce la fa a ballare? Meno male che io ho scelto di fare l'astronauta e alla fine lo potevo fare. Senta, ma dall'alto i problemi sembrano più piccoli o no? Direi che tirandosi via un attimino dai problemi, si riescono a isolare e a capire meglio. Sicuramente mettendosi in questa situazione di isolamento, confinamento, una situazione potenzialmente pericolosa, uno che capisce che i problemini di tutti i giorni, se li lasciassimo stare, sarebbe meglio. Senta Nespoli, però lei ha scritto che anche che tanti pensano che andare nello spazio risolve dubbi, ma non è così. I dubbi non li risolvi, anzi ti fai ancora più domande. Quali domande domande si riferisce? Mi riferivo alle questioni di carattere religioso, per esempio. Cioè, andare nello spazio ti ha chiarito, credi in Dio, e tutti pensano che andare nello spazio ti dà la risposta. Secondo me no. Andare nello spazio ti accentua di più ancora quelle che sono le tue credenze. Se quelli che credono in Dio dicono: guarda, tutta questa cosa è impossibile che non ci sia un Dio. E quelli che invece sono più tecnologici: guarda, abbiamo fatto una cosa impossibile, quindi vuol dire che si può Ma fare. Ma lei ci crede o no in Dio? È una domanda interessante alla quale ho qualche difficoltà a rispondere. Non è obbligatorio. Senta, il prossimo grande passo alla scoperta del cielo, lo sbarco su Marte. Perché è così difficile Marte? Perché è lontano o per altre ragioni? Perché è lontano. Perché è lontano, ci vuole tanto tempo, perché l'equipaggio che andrà su sarà sicuramente in isolamento. Oggi dalla stazione possiamo chiamare Houston, e c'hai migliaia di persone che ti aiutano. Da Marte, se chiami Houston, aspetti mezz'ora che ti rispondono e magari dicono: scusi, ci rifà, com'è? Non ho capito, ripetete. E quindi è un problema serio. Ci abitueremo anche a aspettare mezz'ora. Senta, ma quindi la soluzione per queste grandi distanze per adesso non c'è ancora, insomma, è ancora ci stiamo lavorando. Il problema serio, che secondo me, è che una nazione oggi non può pensare di andare su Marte. Dovremmo fare una coalizione mondiale e fare una missione mondiale dell'umanità su Marte. Quindi è un elemento che potrebbe unire l'umanità su qualcosa di buono invece che su cose peggiori. Se ci si concentrassimo tutti assieme a fare queste cose, secondo me sarebbe meglio. Ecco, ma la missione appunto ExoMars in corso su Marte, cosa consiste allora adesso? ExoMars si sta andando a vedere se su Marte c'era la vita. È una domanda veramente importante. Ma se si trovassero tracce di metano su Marte, si potrebbe pensare alla presenza di materie organiche e quindi forme di vita? Questa è una domanda da astrofisico, da fisico. Sono un ingegnere. Direi che in linea di principio, senza andare tanto nel coso, il metano è una delle componenti di base per la creazione della catena genetica del DNA, e quindi direi che se ci dessero questa cosa potrebbe darci un altro pezzettino del puzzle da risolvere. Senta, ma girando appunto intorno alla Terra nello spazio, lei si è fatto l'idea che ci sono o non ci sono delle forme di vita nell'universo? Sicuramente non ho mai incontrato alieni, anche se mi sarebbe piaciuto, a dire la verità. Il problema vero è che noi pensiamo allo spazio come la Terra. La Terra è, presa nell'universo, un granello di sabbia tra tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge di tutto il mondo, e pensare che quello sia l'universo è veramente essere un pochettino piccoli. Io sono convinto che da qualche parte di questo universo ci siano delle forme di vita. È un po' strano che ci siamo solo Il problema noi. Sono le distanze. Noi non capiamo queste cose. Le distanze sono spaventose, le velocità, le distanze. Queste sono cose a cui dobbiamo confrontarci, perché come umani non abbiamo neanche l'idea di queste cose. E lì si percepisce proprio questo infinito. Sicuramente sì, guardare dalla Terra dall'assù ti dà un'impressione diversa, ti toglie dal tuo paesello, ti toglie dalla tua regione. Insomma, quindi a questi alieni, che li chiamiamo alieni in fondo per esorcizzarli, però in qualche modo l'idea che ci sia qualcosa viene naturalmente facendo questi viaggi. Io sono convinto che da qualche parte dell'universo ci siano delle forme di vita. Il problema veramente sono le distanze, non riusciamo a trovarle. Speriamo. Terrò gli occhi aperti nella prossima missione. Va bene, me lo farà sapere. Senta, lei ha detto che non ha ancora deciso cosa farà da grande. Ecco, 60 anni, fare da grande è fantasia, insomma. Bisogna sempre, spero che tutti facciano questa cosa, perché una volta che uno si mette un obiettivo e lo raggiunge, poi deve capire cosa fare. E questa è l'essenza della vita, sostanzialmente, che la vita non finisce mai. E allora le faccio l'ultima domanda: il sogno del bambino Paolo Nespoli, dopo quello di diventare astronauta, qual è? Questa è una domanda a cui non ho ancora una risposta. No, prima fa il volo. Prima voleremo e poi vedremo. Il sogno è quello di continuare. Il sogno è quello di poter continuare a essere bambino, non tanto nel fisico ma nella mente. Continuare a essere curioso, continuare a lavorare, continuare a cercare di fare le cose impossibili. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Vabbè, Mario, un titolo per Nespoli. Naufragarmi è dolce in questo spazio. E tu, Pietrangelo? Un immenso giramento. l'universo. Oh, siamo poi, comunque interessante questa, sì, questa storia. Le dicevi dei russi? No, dicevo, a me invece mi ha colpito moltissimo la differenza, nell'analisi che ha fatto, la differenza delle due tecnologie, quella super essenziale russa che sembra cartapesta, che invece dura e regge. Beh, quella Soyuz è molto evoluta, molto tecnologica, ma in qualche modo più fragile forse. Perché è legata all'impostazione di mercato. Questo, quelli hanno fatto la macchina più complessa del mondo, che era lo shuttle. Fantastica. Però dico... Poi l'hanno dismesso perché costava troppo. E si sono ritrovati a fare i viaggi con i russi. Sulle navicelle russe. Vecchie, insomma, ma funzionanti. Però il primo cosmonauta russo è stato quello che poi ha riaperto il meraviglioso convento del Lago dei Cigni. Posso dare un consiglio a chi non l'avesse visto su questo tema? Guardi Gravity, molto interessante. È vero. Pascal Vicedomini, Pascal. Buongiorno, buongiorno Pascal Vicedomini, giornalista, ideatore dei festival di Ischia, di Capri, Los Angeles, Italia, la rassegna in programma a Hollywood durante la settimana degli Oscar, insomma il nostro ambasciatore del cinema nel mondo. Pascal, adesso sei a Cannes, si apre il festival senza italiani nelle selezioni ufficiali, una selezione minore, una edizione minore? Assolutamente no, ma questa è una fesseria, in italiani ci sono tantissimi. Sì, ma nelle altre, nelle altre sezioni, no? Io non credo affatto nelle competizioni, nei festival. Beh, si fanno per quello. Pericle Nero di Mordini e nella sezione Certe Regate. Poi ci sono Virzi, Bellocchio e Giovannesi nella Kensington Realizzatore. Insomma dobbiamo essere soddisfatti. Senti Pascal, sì, anche perché sono protagonisti nel mercato, perfetti sconosciuti. Il film è di Genovese, prodotto da Medusa, è il film più richiesto al mercato. C'è proprio un'asta tra Weinstein, la Fox, la Universal. Veramente Pascal, sì. Intanto ieri però abbiamo sentito che il palazzo del festival è stato evacuato. Cos'è successo? Dunque, qui naturalmente l'attenzione è alta perché appunto siamo in Francia. Certo, dopo Parigi si parla di un festival blindato, è vero? È verissimo, addirittura mi diceva ieri un amico italiano che vive qui che circa un mese fa hanno fatto anche una simulazione di evacuazione dal palazzo, hanno avvisato la cittadinanza e proprio hanno simulato come se ci fosse... Insomma, la paura c'è. La paura c'è, ma insomma c'è un solito molto entusiasmo perché è un evento attesissimo, certo. In Francia il cinema rappresenta tanto. Ecco, ma a Cannes sono più importanti i film o le star? Ma le due cose, perché senza film non c'è content di discussione. A Cannes è importante soprattutto il mercato, perché poi a monte questo è un business. Certo, dunque è evidente che se non ci sono i film le star possono stare a casa. Ecco, ma su che film, è importante che ci siano le star. Ecco, ma su che film puntiamo? Cioè tu, visto che siamo liberi dal tifo personale. Certo, no, ma è molto interessante il film di Sean Penn, The Last Face, Jim Jarmusch con Peterson, e poi ci sono i soliti Almodovar, Arnaud, Iderden, Paul Verhoeven. E gli italiani che non sono in gara, dicevamo, ma che ci sono, quali sono i tre più interessanti secondo te? Virzi parte molto... molto, molto forte. E poi c'è Stefano Mordini con Scamarcio, film prodotto anche da Valeria Golino, che è in giuria. Io personalmente sono qui per realizzare una trasmissione per il canale Iris, che andrà in onda tutti i giorni in diretta intorno alle 14:30 e in serata dopo il film di prima serata. Bene, quindi auguri per la tua trasmissione, ci risentiremo naturalmente nei prossimi giorni. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Di cosa la canzone. Tua canzone? Eccola. Oggi People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are under. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Allora, Pietrangelo, stamattina... Moltitudini di solitudini stamattina in metropolitana, però in realtà ogni giorno sono moltitudini di solitudini, perché la stranezza è straniante e ci si incontra per non ritrovarsi più. Ci sono nomi che non si ricordano, ma soltanto perché non ci si è presentati. Nomi soltanto immaginati perché la gente strana, e strani siamo noi, ha chiamato Leibniz, ha voluto questo brano da dedicare... giusto appunto alla macchina celeste, con un messaggio: non si è mai stranieri nella monade, figurarsi nello spazio. Assolutamente. E intanto Nespoli continua a avere molti sms, gente che è stata colpita dalla sua personalità. Uno per tutti: Roberto da Modena dice avrà 60 anni, avrà esperienza, ma l'entusiasmo di un ventenne. Che per è andare vero. Nello spazio ce l'hai. È così, infatti. Bolla, Mario. Allora, Red Hot Chili Peppers, bellissimo, un pezzo di qualche anno fa, Californication, vi piace, spero. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Oh, e Giovanni, parliamo di che cosa succede in America, perché secondo me cominciano a esserci delle cose davvero interessanti. Allora, Trump ha vinto in Nebraska e sì. West Virginia, però... questo, diciamo, per noi è scontato, noi abbiamo già misurato, diciamo, la forza del fenomeno di Trump. Sì. Quello che invece sta accadendo nel campo democratico è, secondo me, più interessante, anche perché si riverbera poi sulla corsa di Trump. E cioè il fatto che Hillary Clinton, la cui, diciamo, vittoria è abbastanza, è al sicurissimo come numero di delegati quantomeno, però è insidiata continuamente da Bernie Sanders. Sanders perché... non molla assolutamente. Esatto. Questo è un fatto nuovo anche, no? A questo punto della gara si ritira. Abbiamo visto fra i conservatori americani. No. E invece così. Sanders resta. Questo è un problema nella prosecuzione della campagna, perché significa che Hillary Clinton ha due fronti. Certo. Uno con Trump, che di fatto Sanders. Si muove appunto da candidato alla presidenza, e l'altro, come dicevi giustamente tu, con Sanders. Tutto questo distrae, e i commentatori americani, che seguono ovviamente con attenzione maniacale tutto, cominciano a sospettare che Hillary potrebbe arrivare alla corsa finale, all'ultimo miglio di novembre, logorata, e questo potrebbe addirittura portare a una clamorosa vittoria di Trump. Certo che queste elezioni americane, queste primarie americane sono veramente un inferno, un rodeo pazzesco. Bellissime. Pazzesco. Messaggio... Carissime. Bellissime, molto istruttive secondo me sul piano dell'analisi politica di quello che sta accadendo nel ventre dell'America. Salamino! Oggi voglio dare i numeri. 770.000 sono le domande di sanatoria edilizia in Sicilia, 52.000 delle quali per edifici costruiti a meno di 150 metri dal mare, 392 sono gli abusi accertati e conclamati. Ascoltate, gente buona, gente tenda, ascoltate, c'è la tendoria che canta. Angelo Cambiano, 35 anni, sindaco di Licata, si ritrova da ieri con la casa bruciata. Ed è una minaccia fin troppo esplicita. Eletto in una lista di centrodestra, Cambiano è indicato, accusato, isolato dal ceto politico regionale con una definizione: è il sindaco che vi sta buttando giù le case. Impegnato Cambiano nel semplice quanto impossibile compito, che è quello di far rispettare la legge, è già stato spedito in ospedale da un ambulante insofferente verso i regolamenti e le disposizioni. E adesso che Cambiano sta attuando l'ordine della procura di Agrigento, che è quello di fare abbattere le case abusive sul mare di Licata, dal naso rotto si è passato a vie di fatto più consistenti. In questa operazione di giustizia, lo vorrei ricordare, a noi stessi e agli ascoltatori, c'è una guerra antica ed è la difesa della bellezza di cui si fa carico oggi una magistratura decisa a restituire la libertà al mare, al paesaggio e alla Sicilia. Sul Corriere di oggi c'è la chiara presa di posizione anche del Vescovo di Agrigento e sulla Stampa leggo una dichiarazione di Ignazio Fonso, procuratore aggiunto di Agrigento, che spiega bene questo concetto, e cioè che chi ha incendiato la casa di Cambiano vuole addebitare al sindaco la responsabilità, pensando così di arrestare una cosa che non si può arrestare. Il sindaco ieri ha avuto il ministro dell'interno al suo fianco, ma la migliore risposta è la ruspa. Ti invito al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce. Ancora una bella cosa che ci scrive il nostro ascoltatore a proposito dell'intervista di Nespoli. Grazie, mi avete fatto provare la sensazione di essere nello spazio mentre guidavo la mia piccola auto. Molto, molto simpatico. Mario, una bolla ancora. Se ti tagliassero a pezzetti il vento lì raccogliere. La canzone di André che è fantastica, sì, è un il inno regno poetico. Dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe. È difficile interromperla questa, sì. Devo dire che è quasi un sacrilego, sì, sì, vabbè. Stamattina è andata così che ho scelto questa. E in realtà voglio ricollegarmi al viaggiare, all'esplorare, all'innovare, a quel signore che ha detto che provava appunto la sensazione di stare nello spazio in macchina, perché voglio parlarvi di Hyperloop. Che cos'è? È una tecnologia che sostanzialmente sfrutta il vuoto dell'aria dentro un tubo e ti fa viaggiare alla velocità del suono. Detta così sembra facilissima, in realtà semplice non è, però ci stanno lavorando e la società che sta diciamo cercando di mettere in piedi pratica la tecnologia per trasportarla. Ma che cosa serve sta tecnologia? A viaggiare a 340 metri al secondo. E a sostituire, il progetto. Il progetto nasce perché in California fanno sostanzialmente una ferrovia e tutti i guru della tecnologia si ribellano. Prima di tutto Musk, che è il fondatore di Tesla e di SpaceX, e dice no, dobbiamo fare una cosa nuova. E si cominciano a lavorare sul progetto di questo nuovo sistema di trasporto. Attraverso un tubo pieno d'aria. E si viaggia nel vuoto sostanzialmente. Cioè fine degli aerei. Beh, non dico degli aerei, però fine della ferrovia come l'abbiamo vista, fine delle automobili, cioè stiamo parlando di viaggiare alla velocità del suono, sì. Per intenderci. Il problema è saper dove andare. Canzoniere! A tavola noi ragazzi sedevamo in tre reparti. Io dovevo sempre sedere in fondo e mangiare coi più poveri. Potrei forse dimenticare le formiche nel pane della terza classe, ma che noi bambini fossimo divisi in classi mi brucia ancora nell'anima. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms, pubblicità. Mix 24. Ogni testo che scrivo col sangue In serata un agguato di camorra nel rione Sanità di Napoli. Killer in azione, hanno sparato in strada, ucciso due esponenti del clan Vastarella, ferito gravemente altre tre persone. Torna il terrore nel quartiere in cui sette mesi fa fu ucciso il 17enne Jenny Cesarano. Secondo le testimonianze raccolte sono stati due i killer a entrare in azione. Sono arrivati a bordo di una motocicletta. I due sicari hanno cominciato a sparare dall'esterno, direttamente dall'esterno del circolo. In quel momento c'era anche un carretto che vendeva granite con due bambini vicino, bambini che sono stati lambiti dai proiettili. Così la cronaca quasi quotidiana che insanguina Napoli, una realtà tragica e inquietante, quasi un cortocircuito con la finzione, perché gli spietati criminali sempre più giovani che si contendono il potere dentro i vicoli del centro storico somigliano ai protagonisti di Gomorra. La serie televisiva di successo tornata ieri su Sky per un'attesissima seconda stagione. Una criminalità sottoproletaria che conosce solo violenza e disprezzo per la vita, senza cupole, senza capi. In fondo, lontana dalle strategie della camorra storica che da secoli devasta la campagna. Storia criminale, la camorra, un racconto documentato emozionante con i protagonisti di ieri e di oggi, i carnefici, le vittime, le connivenze e i segreti. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale d'Africa. Ecco, in questo contesto si è infiammata la campagna elettorale ieri a Napoli per le parole che abbiamo sentito in tutti i telegiornali, in tutti i programmi di De Magistris. Io non le voglio far risentire, però una cosa mi ha colpito, perché mi ha detto Renzi, devi avere paura. Devi avere paura, ecco, paura politica, benissimo, speriamo che si riferisse soltanto a quello. Mario, c'hai ancora una... Sì, c'ho una cosettina, vi faccio sentire prima. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto, la paura è un problema che non ti riguarda. Una poltrona per due e compra poco, vendi a molto. Tenete d'occhio che cosa accade nel mondo delle TLC e delle TV, dell'entertainment. Disney, per la prima volta in 5 anni, parliamo di un'azienda stellare, i migliori in assoluto, in borsa Wall Street. Ebbene, per la prima volta in 5 anni, diciamo, non ha centrato le stime degli analisti. Non c'è da, diciamo, preoccuparsi molto, però tutto dipende da ESPN, che è la loro televisione, sì, certo, numero uno dello sport, sì, nel mondo, che ha avuto un calo di abbonati e di pubblicità. È un segnale? ESPN sta calando? Sì, sì, c'è stata questa cosa qua che è abbastanza sorprendente. Perché dicono? No, c'è un'analisi oppure no? Per il momento no, però è un segnale da tenere d'occhio, perché certo, comunque Disney è un'azienda dalle strategie enormi, lo sai, certo, meglio di me. Insomma. Ecco, Pietrangelo, vuoi darle un aiutino? C'abbiamo qualcuno che... riascoltiamo il canzoniere, dai. Pronto? Senza sigla? Senza, sì, musica? Senza musica, no? Va bene. A tavola noi ragazzi sedevamo in 3 reparti. Io dovevo sempre sedere in fondo e mangiare coi più poveri. Potrei forse dimenticare le formiche nel pane della 3ª classe, ma che noi bambini fossimo divisi in classi mi brucia ancora nell'anima. E allora 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, non c'è nessuno che vede. E allora forse la Boschi potrebbe indovinare. La Boschi potrebbe indovinare. Ce la può fare se sempre ci ascolta, certo. Gloria Guerrera, per chiudere, cosa che canzone ci fa sentire oggi? Una canzone per chi estraneo e nascosto ama, pronto a dare tutto a chi nemmeno lo distingue. Luigi Tenco, Tra tanta gente. Io ti rivedo sempre tra tanta gente che ti sfiora, che ha voglia di te. Lungo le strade, dentro i bar dove aspetti sempre, ma tu non sai più chi. Non volevi, tu cercavi qualcosa che non hai, che nessuno ti dà. sola tra tanta gente e non sai che io soffro per te.